c'è da un bel che non arriva, speriamo che non arrivi qualche botto adesso. Ma un fatto del genere a me mi è successo un 3-4 anni fa, Gianni, mi avevano mandato che non risultava pagati due anni, non risultavano pagati. Meno male che noi conserviamo tutto indistintamente. Io ho bollette addirittura dell'acqua, della luce, del telefono, proprio ad esempio io il telefono ce l'ho roba di 47-48 anni, ho tutte le bollette, dal primo giorno sino all'ultimo, e così lo stesso discorso per la luce, così per l'acqua, e così per la tassa mondezza. Sono andato, ho preso un sacco di tempo perché le ho tutte quante messe in ordine, poi no? Anno con anno, mese con mese, proprio tutti. Quando sono salito su con gli anni che loro mi cercavano, poi allora non risultavano. E queste cosa sono? Queste qui sono ricevute, si hanno fatto la fotocopia, si hanno fatto tutto a posto, dice, evidentemente dice non l'abbiamo scaricato noi, dice. E vabbè, ma intanto mi avete dedicato, però, e mi avete fatto prendere una mattinata qua, perché ho dovuto fare la fila, eccetera, eccetera. Purtroppo succede così già. Ma quando succede così devi andarci per forza, se no ti mandi la mala. Va bene, vai Tony. Cazzo. Comunque fanno cazzate, perché tu prendi adesso un anziano che abita da solo in 120 metri quadri e fanno pagare un casino. E mica questo povero uomo fa mondezza in tutte le parti. Dai, che mondezza può fare un anziano? Prende un 80enne. Nulla. Io pago perché ho anche due cani. La famiglia è aumentata. Tony, se ti sono presenti, il locale è chiuso, locale, mondezza faccio io, se è chiuso non ne posso più una mondezza, non ne ho più fatto. Dice, per non pagare più bisogna togliere il contattore dell'acqua, il contattore della luce, togliere il telefono e svuotare completamente il locale, perché se tu ci lasci una sola sedia o un grosso cappello, paghi la stessa mondezza, così loro ragionano. Cosa vuoi dire, Tony? Purtroppo sono delle ingiustizie, però è così. Ecco come. Vediamo se c'è Natalino. Natalino, aiuto. Natalino! Emanuele, ci sei? Tutti a spasso se ne sono andati perché è bella giornata. Vai Gianni! Adesso è giornata di uscire. Ieri, per dire, eravamo al bar che c'è a Luna e Sole, lì. Cazzo, c'era un sole che spaccava le tette, sono tornato a casa con la faccia rossa, abbronzato. Ma se io l'altra volta, era una giornata di sole, ti ricordi quando avevo lo stilo della Mantova Turbo ancora piazzato, te lo dicevo sempre, ce l'ho colicato per terra nel poggiolo della mansarda, che è lungo 8,50 m, l'antenna è 7 metri, e ce l'avevo sdraiata lì, era un paio d'anni così. Quando ho deciso di chiuderla, l'ho preso, sono stato quasi piegato, un quarto d'ora, e mi sono uscito tutto bruciato in capo, perché non ho capelli, e in faccia, tutto rosso rosso. Ma un quarto d'ora è tempo, mi Gianni, non di più. Mi ha subito arrossato il sole, ma cosa vuoi che ti dica? Va bene che io sono pelle bianca, sicché poi appena riprendo un poco di sole divento lui come un peperone. Vai Tony. E io, due da cicalaggio di bianca, infatti. Se più il sole a te ti faccio per mare, che ti bruci. Andare. Insomma, Ginko che fine ha fatto? Se faraggio. Avanti già. Papà Ginko sta per fare il baracchino ad andare a me. Quale? Quello grande? Sì. Non me ne vuole dare nessuna maniera. Ma chi c'è che l'ha pagato, aveva ragione. E poi tu già ce l'hai già. No, no, quello lì, no, l'altro. Sapiro. E vabbè, non è più chiuso, me l'ha fottinuta, tanto ne ho mille di baracchini, cosa me ne vuoi? E appunto, e che baracchino è già? No, ma tanto non lo dà, Natalino, me l'ho già chiesto io, non me lo dà. No, ma io non ne voglio, poi arrusai, in che situazione so io, quindi... Baracchino, volevo sapere che cosa era, capito? No? Era una curiosità, io non gliela chiedo a Emanuele, cosa? Chi chiusuro di Pavio, già lo sa. Era un apparecchio della Intec, stazione base, è bellino, dai. anche se ha molta plastica davanti, però poi c'ha tutte le coperture in ferro in lamiera. Ah, stazione base, belli sono quelli, mi sono sempre biaditi, però purtroppo i noghi li arrusati, come in te. Io non gliel'ho visto già. Esatto. Non gliel'ho visto questo. Non gliel'ho visto che cosa? La marca. Lo baracchino si dice. La base, cavolo, come quello che ha fatto è uguale. Ah, di cui stai parlando? Sì, sì. Allora lo fa la Intec, lo fanno in tante case, però lo marchiano diversamente, però è sempre lo stesso apparecchio, capito? Capito. Capretto. Il tuo è la volazione. Cappa. Sai qualche cosa è riuscito a fare? Ma è stato un po' scacciavitato, dai. Oh, yeah. E quando sono così è più difficile aggiustarlo, a metterci mano. Se che una cosa è rotta, la trova, la cambia, l'è fatto. Magari li vuole in mano, è un casino. Ne hanno cambiato la resistenza sbagliata. Hanno fatto modifiche, dai. Mi hanno detto già chi ce l'aveva, quindi. Però mi ha detto Emanuele, mi ha detto chi ce l'aveva, Chi l'aveva dato Gio Maria. Cabagata. Vabbè, Giulio non ne vuole vendere, allora basta. Che cosa? Con cosa già? Il cobra. No, oh, cosa vedi? Stavo dicendo, lei ha appena arrivata una notifica su YouTube, dagli amatori, come si fa per la patente? Come? Per la patente del radioamatore, mi è arrivata una notifica su YouTube e adesso l'ho aperta, come si fa per fare l'esame della patente? È facile, giù. Sì, 60 domande sono, e tanto vazio di nostro, guardando tre voci e mani bucciando, tutte e tre voci. E puoi sbagliare 24. Come si svolge l'esame per la patente, radioamatori? Ed è questo radioamatore, Italia U2, Italia Kilo Eco, esame. Io sì, 60 domande sono, sono 60 domande, sono a fare in 4 ore. Va. Capito. Io lo so già come si svolge, perché ci sono già andato. Attali, io si parla su Cusco, non dico io che sono bravo, ma ci vado. Ho passato 1-2 anni e non me la fottenuta. È inutile andare, ci bocciato. Ehi, te lo sto dicendo, a me mi hanno bocciato e ne sapevo più dell'ingegnere. Capito? Mi hanno bocciato. Ho fatto uscire promosso gente, figurati. E tu a me mani gribato. Natali, non dici che tu ne sai più dell'ingegnere, se no ci promosso. Oh, yeah, yeah. Per altre cose non me ne hanno data, a me infatti non ci scendo più perché non me ne daranno mai. Posso essere il più bravo del mondo e non me ne danno. Che io lo so già, la situazione. Non lo vedi che se poco a poco protestavo e ricorrevo mi facevo invalidare l'esame. E perché non te ne danno mai? Vedrai che non ti conosce nessuno, lui ti passa. E perché non te ne danno mai? Perché sei già recidivo. Perché mai me ne daranno? Sono andato 3 volte, non una, no, 3 volte. Eppure, Nisba, e ho studiato e mi ho fatto un culo che tu manco te lo immagini. Tony, a studiare. E ne sapevo un bel, addirittura la roba della matematica per le, applicata all'elettronica me l'ha fatta un amico mio, un radioamatore. Beh, mi sapevo fare i calcoli, tutto quanto. Nuda! Non c'è stato niente da fare. Ma... Oh, yeah. Io quando mi sento, sarà pronto, andrò anch'io, ho detto tra 1-2 anni, non ne ho fretta, e lo darò anch'io. Fallo, se te la danno, buon per te, capito. Io non ci scendo più, infatti mi ho venduto tutto, mi ho venduto tutto perché mi sono disgustato, capito. Poi mi sono sposato, sono venuto qui e mi ho preso questo cavolo del baracchino, che se gli metto a mano lo vedi se pompa, solo, che cazzo, non lo puoi educare, è omologato. La radio è chiusa, da 3 watt, non funzionano le bande, e tu usa la radio apposta, l'ho comprata apposta perché è omologato. E comunque, io dico questo, Rotary, io un domani, quando andrò a dare l'esame, se tutto va bene, che sarà promosso, mi auguro di sì, perché non vado sì quando non sono pronto, allora mi posso comprare l'attrezzatura. Non che mi compro l'attrezzatura, è come se prima uno si comparisce una macchina, poi andava a piacere la patente. No, io prima prendo la patente, poi mi prendo la macchina, io la penso così. Vabbè, io mi costruivo anche le antenne, capito? Avevo fatto una multibanda che era una bomba, da tutte le parti andava. C'avevo un accordatore americano, ti sto dicendo che c'era un amico mio, Salvatore, che saliva a casa perché io c'avevo le antenne. Alla fine gliel'ho costruita a lui, perché veniva sempre a casa a farsi gli ex, si faceva a porco, non so cosa vuol dire a porco. Poi l'ho fatta a lui, l'abbiamo piazzata in casa sua, quella multibanda, e modulava da lì. Se si metteva il 140 in macchina, lui per fare gli ex in macchina mi impiazzava i segni. Quegli stili della Echo c'aveva, secondo la banda che era, metteva lo stilo suo e modulava dalla macchina. Ehi, l'ho sentito anche a Salvatore modulando, era anche bravo parlando l'inglese. È un mostro, era una macchinetta. Io avanti giucchia e a vederlo non pari, inganna, capito? Sino 80 metri ha fatto la lista di canti venire nei Guriani con le gara Giaglinia, figurati. No, io a dire la verità non faccio mai pensato, e quando mi è capitato di pensare ma un minuto da voi di 30 secondi non sono quel mitigato subito la cosa, non io non adesso vi svelo il segreto per quale motivo io non ho fatto mai gli esami del radioamatore, perché non mi piacciono tutte queste antenne sul tetto, solo ed esclusivamente per quello, perché caspitina, mamma mia, saranno belle, saranno quello che vuoi, ma io non sopporto il tetto con tutte queste antenne così, nonostante la passione che ho per la radio, e allora ho preferito restarmene CB. E mi va bene così, e mi basta così. Ah, ma che faccio? Che dai, che faccio? Naturalmente non ci penso proprio. Prima non ci pensavo, ma proprio non manco mi lamento che esistono possibilità di fare l'esame per la patente. Penso un poco. Poi, e poi tutto sommato, alla fin fine, cosa hai risolto e cosa hai guadagnato? Niente. Quanto chiacchiere ce ne possiamo fare qua anche, interessante che ci siano sempre persone serie che si possa parlare. Poi per il resto, vi dirò di più, quando avevo la Mantova Turbo, accordavo io la radio e la mattina parlavo in 45 metri, come parlare al baracchino tra me e voi, così, nello stesso modo, sicché non è che avevo questa grande soddisfazione, era una cosa normalissima, proprio nel vero senso della parola. Vai Tony. Giulio, basta anche un filare, se vuoi mettere la stazione radioamatoriale, basta un'antenna a filare, un dipolo. C'è Stefano a Urbia che modula solo col dipolo, per dire, e va bene. E cosa dipolo? Ci vogliono le antenne sue, ci vogliono noi così. Ma poi alla VHF c'avevano 12 elementi, chi te la di mastodontica, ma sai, anteramanda. Poi c'avevo quella normale, c'avevo la UHF, gli facevo il ballo, ma se me le costruivo le antenne io, che a Stesso Guizzelli c'avevo la multibanda, dipoli qua, dipoli là, già ce n'erano poche attaccate di antenne, se mi avevo fatta addirittura una un dipolo a V invertita per la banda di su, solo per fare VX, per cui non andava bene. Figurati. E sia così forte il suo dipolo era, per i VX era una bomba. Era. Purtroppo ho perso la passione perché me l'hanno fatta passare, capito? Mi sono disgustato, m'ho venduto tutto, basta, non ho voluto più sapere. Poi mi 3 anni fa ho preso e m'ho preso il baracchino, torna che mi l'ha fatto va. Vabbè, la passione rimane. È come il primo amore, no? È una cosa che rimane, che non dimentichi mai, così è la passione. Quando c'è la passione per qualcosa, io per dire ne ho diverse di passioni, la pesca, la fotografia, il baracchino, l'acquario, gli animali, gli uccelli, ne ho diverse, tutte dispendiose. Hai detto giusto Gianni, il primo amore non si scorda mai, infatti Natalino se l'ha ripreso perché anche se si è sposato, penso sempre a Falcone. Nasu! E pensa alle ragazze che si rimorchiava al baracchino, allora se l'ha ricomprata. Ai cantue di roba mala, Natalì, ma è vero, visto che sono disegni che siamo di nutri. Allora sono mari, sono ragazzi uccello sono. Mamma mia, capita, boh, proprio sei preso proprio di mira, non c'è niente da fare. Tony, ma insomma, allora che ti sta in panza a Natalino? Capitina, prendetemela con me, ma non con lui. Vai Tony. Giù, tu sei già passato ormai, capito? La prendo e la prego. Zitta. È solo la verità, mi. Poi ci ha smaliziato lui perché noi eravamo persone ingenue. E noi, dall'inizio, meno male che lui ha giambato strada, se no vai. Natalia, intendi. Ciao, Bettina, vabbè. Ma si vede che era un mandrillo allora, quando era giovane, quando era ragazzo, Lottalino era un mandrillo. Anche Gianni però, Tony, anche Gianni era così, non lo risparmiare a lui. Ma aspetta, c'è differenza tra Gianni e Natalino, Natalino andava a Falcone. E allora, non capivo. Cava. E poi ci pensava Tonino, io davo gli appuntamenti alle ragazze, una volta ho dato un appuntamento a questa tipa che modulava, ci siamo trovati in una certa discoteca e non ne viene Tonino con la maschera da vecchio, me lo presenti, mi ha assustato, non l'avevo riconosciuto. Con l'altra persona invece andava a precatturare. Andavo io, me ne trovavo io. Scusate, che devo dare una risposta. All'amico che mi ha mandato quella foto, molto ma molto bello. Complimenti, hai fatto un'ottima scelta, se mi stai ascoltando, ma suppongo di sì. Ok. Va bene, riprendiamo il discorso, vediamo un po' se risolviamo questo problema di questi due mandrilli che ci sono qua in frequenza con noi, Tony. Cosa dici tu? Cosa facciamo per risolvere il problema? Ormai ho preso quella strada, è come te lo alberello, se non la dici prima, è mai maraduccio. Ah, Gianni si è calmato da ottobre, perché da ottobre già? Praticamente fra un po' sarà il tuo compleanno ad ora. No, perché a ottobre mi sono mollato con la tipa che conquistavo e quindi mi sono calmato, perché poi ho avuto tutta l'operazione e non ho avuto più tempo. Appunto, è a ottobre sarà il tuo compleanno che ti sei lasciato. Anno, guarda che il primo anno non si scorda mai. Esattamente dal 20 ottobre. Pure, magari ci dici anche l'ora, dici anche l'ora. L'ora era molto tarda, c'erano state le 2 di mattina. Tony, allora è la macchina da gada, vuol dire che non era d'accordo con quello che voleva lui a quell'ora, Tony. Le 2 di mattino. Ci fanno certe cose. Non era d'accordo quella donna. Allora lui l'ha lasciata. di la verità, Gianni, perché non dici la verità quando, quando parli? Non parlare così sotto metafora, chiarisci, chiarisci. Sarebbe troppo pornografico chiarire. Comunque non è come pensi tu. C'è stato il consumo e poi ci siamo lasciati. Oh Giulio. Sì, dimmi Tony. E tu non sai cosa mi ha raccontato Natalino, una voce, che ha trovato una persona, me l'ha fatta una scappatella, è andato un po' al posto, e mentre ero al miglio gli ho detto Natalino, adesso te la metto un po', non te la messo mai nessuno, e chi te l'ha zicchiriato? No, negli occhi no! Natalino, ma non è possibile, che fratello di buon rifatto, no? Romania come li fa, negli occhi anche, ma dai, Natalino! No, non l'hai capito, questa ha preso tutti i posti, ho detto, te la metto un posto, te la metto la sua. E chi ha detto, no, negli occhi no, solo lui ci sono rimasti. E il minimo. Ah, io fate da bravi, che se c'è Riccardo all'ascolto, senti tu. Vabbè, parliamo seriamente, dai. Una volta ho comandato con Natalina a Pocchiodoro, o Giulio. E ho detto, aspettami qua, era a porto, che sa, con l'altro sono andato, sono un amico, le devo dare la commissione, poi vado via. Sono andato là, mettendo la taglia, ci ha messo, Torino, Bosse, dai che tu dici, Torino, la città, Torino, sembra Bosse, e di Maciara va, e di Pendica, ci ho mettato la gambina, ci ho messo con blocco, ci ho cacciato, qua c'è Natalino, ma mi dai fatti, Torino, come ci fai con la lavetta al collo? Tony, la prima volta, no, la mia prima volta, avevo 14 anni, quando mi sono presentato mi ha detto, e cosa vuoi tu, vai vai, è meglio un bel figlio quello che sei più umano. Ma come ho detto, mi hai fatto un arruricchio. Ma te non mi direi, no? Vabbè. Natalino, ui, stai dicendo che siamo più pornografici. Allora, io mentre voi parlate stavo controllandomi la macchina fotografica a proposito di fotografia e capivo più andare a fanni, non posso camminare. Mi è Natalino fuori mentre la persona mi, che poi si è fotografato, lo posso giù e da finito. Ha capito chi è? E l'ha mandato un WhatsApp. E da voi l'hanno ricattato, uscì. E allora, e io, l'ho preso un buco, no? Ha chiesto chi il più tempo, me lo c'è qui cu. Chi c'è? Facciani. Aio, Emanuele. Aio, sto passando a Pilate che andiamo da Giubici a comprarti l'antenna, dai. Aio, ti rabbiate così a Roma che ci fosse da tutti i rimbassi. Aio, ti compro l'apparecchio, tu con quei soldi ti compri l'antenna. Io me l'ho girata perché Gianni comprava la lantera per farsi via l'apparecchio. Ah, sì. Un su già. Mi gli faccio una matta a turbo da vendimmi. Vabbè, quella me la prenderei a occhi chiusi. Oh, Giulio, non ti ha telefonato quella persona? E chi sarebbe quella persona? Fammi capire. Allora, ne stavo parlando, lo dico chiaramente, ne stavo parlando con Stefano stamattina. E mi ha detto che praticamente ti chiamava perché poteva interessare a una persona che conosce lui, capito? Stefano Olbia? A Olbia, sì, perché c'è, adesso ti spiego, si è formato un gruppo di 5 persone a Olbia e c'è qualcuno che non c'ha antenna. Ho capito già, però io non sono intenzionato, sai, io non ho venduto mai niente, in questi 48 anni mai ho venduto niente. E devo dire che questa antenna ce l'ho così e non la sto usando, però mi dispiace anche venderla, veramente, non, tu mi dirai, ma cosa te ne vai se non la usi? Niente, non me ne posso niente, perché anzi mi dà anche fastidio, perché alle volte la devo spostare, però non la prendo già, non la prendo, veramente, se non l'avrei data Antonio Riserva, ma tempo fa me l'ha chiesto Antonio Riserva, l'avrei data a lui, per cui non la prendo, è nuova, sai cosa vuol dire nuovo? Veramente in ottime condizioni. Ma sino a ieri tu hai detto gira mi vendo anche la Mantova turbo, tanto non me li posso usare, mi vendo tutto canto, ne capo un poco di roba, mi vendo anche la Mantova turbo, io l'ho detto a Stefano che la stavi vendendo, ma forse non poteva più. Lo so, infatti ho già incominciato a sentire il parco Baracchini, che due li ho regalati a mio nipote, e lui mi ha stato l'antenna originale, la Game Master originale, e io in cambio per ricambiare gli ho dato due baracchini, un microfono e alcuni stinuti, eccetera eccetera, stinuti per il microfono eccetera, queste cose così. E sto cominciando a snellire, in effetti non me ne posso niente, e man mano che passa il tempo sicuramente me ne disco, magari ne darò ancora qualche altro anche a mio nipote, sicché non è un problema. Però devo dire la sincera verità, l'antenna non la voglio vendere, per il semplice fatto che sono sempre interessato a piazzarla. Così posso mettere due antenne, cioè quella che ho, la Game Master più la Mantova, e due baracchini contemporaneamente, tutto lì. Tu lo sai, tu mi dai cosa te ne fai due baracchini? Lo sai benissimo cosa me ne faccio, uno ascolti e l'altro parli, semplice, no? Ia. Ma vabbè, vedi tu cosa fare, Giulio, vedo che hai le idee un po' contorte, se no l'altro giorno volevi vedere tutto, vabbè. Andare, se ti sei affezionato all'antenna, ma se tu hai sempre detto che quell'antenna lì ti dava fastidio perché col vento fischiava, adesso la vuoi ripiazzare, boh. Vabbè, ma la piazzo magari senza i radiali, o se i radiali di piazzo li utilizzo solo in estate, perché in estate il vento non ce n'è, vanno magari d'inverno, poi ci vuole poco a toglierli. Tu lo sai, io ho sempre utilizzato il palo a tipo cannocchiale, mollo il bulone, scende e me lo porta all'altezza di persona, no? Allungo le mani e posso togliere i radiali e dunque non fischia più. Magari ci rimane solo lo stilo centrale e posso ascoltare ugualmente già. Io l'avrei piazzata per fare anche una comparazione con la Game Master. Avrei voluto proprio vedere la differenza. Beh, quello non si potrà mai fare, per il semplice motivo perché l'antenna la Mantova Turbo la piazzerei dall'altra parte, sì che è molto più in alto della Game Master. Però la comparazione io intanto lo so benissimo, sono pari, ho Gianni, non ho niente da fare, perché io leggo molto spesso anche forum, Roger Kappa, eccetera, e queste prove le hanno fatte già tante altre persone e tutti quanti dicono è uguale, non cambia niente, guarda, no, capito? Vabbè. Gli iscritti dicono altre cose, comunque magari lo fanno solo per pubblicizzare. No, sto parlando di quelli che sono iscritti al forum, che dibattono, fanno dei cosi, no? Delle dichiarazioni, io ce l'ho tutti e due e devo dire che non c'è differenza tra l'una e l'altra. Magari c'è quello che ti dice sì, la Mantova va un tantino più forte, c'è quell'altro invece che ti dice no, la Game Master è un tantino più forte della Mantova. Sono queste opinioni così che poi le differenze non sono significative, già, sicché non cambia niente, guarda. Mezzo punto in più, mezzo punto in meno, o l'una o l'altra che prevalga è uguale, non cambia proprio niente. Avanti Tony. Io ho prima della Mantova ho avuto la Firenze 2 e dirò che era una signora antenna. Sì, la Firenze 2 io l'ho conosciuta, a Sassari ce l'aveva il fotografo che c'era lì attaccato alla rosa, cos'è, Piazza Castello quello mi sembra che sia, ce l'aveva lui, e andava molto bene, ce l'aveva addirittura un baracchino nello studio e c'era la Mantova, la Firenze 2, ed era un'ottima antenna, veramente. Adesso non mi ricordo come si chiamava quello, perché purtroppo è morto tantissimi anni fa. Aveva un ottimo baracchino, anche io l'avevo visto, aveva veramente un ottimo baracchino. Vai Gianni, te lo ricordi tu quel fotografo come si chiamasse? Ma non mi ricordo che c'era, ma non mi ricordo come si chiamava. Comunque c'era Stardaster in vendita ancora, lo sapete? La Stardaster è ancora in vendita. Stefano Ventogiallo si chiamava. Saturno, sì. Sì, Saturno, è vero, infatti mi è venuto in mente anche a me, proprio subito dopo che ho rilanciato a te, Saturno, è vero, che pure abitava in campagna, io ci sono stato a casa sua, in campagna verso qui dai punti andando giù, come si chiama quella zona lì, non lo so nemmeno come si chiama, comunque abitava lì e aveva un ultimo baracchino bello, purtroppo è morto e vabbè, pazienza. Saturno era una bravissima persona, a me mi è piaciuto come persona, era abbastanza in gamba, era gentile, cordiale, eccetera, educato soprattutto. Natali, ci sei? Ciao Claudio, intanto, vai Natali. E capa, già sono qua, dai. Che stavo controllando una storia della macchina fotografica che mi aveva fatto di petto. Praticamente non era agganciato bene l'affare per le batterie supplementari e non mi vedeva contatto. Avanti qua. No, continuate, sono ascolto, ciao, buonasera a tutti. Ciao Claudio. Sì, poi c'era, io da Saturno ci andavo spesso a provarlo, l'agrolino, capelli bianchi, mi ammetto bene. E poi c'era anche un altro fotografo che parlava baracchino, Stefano, che vento giallo, e la madre Elettra, te lo ricordi giù? Voglio sapere, ricordo, quello era il divertimento dell'ora di pranzo, subito dopo pranzo ci faceva ridere perché faceva il giornale CB, te lo ricordi? Quando faceva il giornale CB, certe battute era simpaticissime che faceva Stefano Bentogiallo, lui a voglia sembramente, abitava lì praticamente sotto Beniamino, in poche parole, cioè Alfa Romeo. Avanti Tony. Capa, ricordo anche Romeo, ci frequentavamo. Ciao Club Ocorix comunque. Sì, ad esempio no, dai, era tutto diverso. Ma vera bomba di femmine per questa, non è venuta. Una volta che è andato via Falcone sono via tutti. No, Natalino è rimasto. Ehi, sono rimasto. Diciamo che sono rientrato. Perché io pure me ne ero andato. Capito? Una volta che uno si disgusta, per forza smette. Io ce l'ho così, e manchi io lo so come cosa mi raggio comparato, anzi due ne raggio comparato a Mario, perché ne ho due, dico. Cioè il Polmar è questo qui, ma il Polmar se lo chiedo, se non funzionava in macchina si lo so che gli stendi il cassonetto. Ma l'attacco ho fatto, te l'hai l'attacco? Non ci sono potuto andare già a prendermi la macchina che ce l'ho lontano, mi è venuto questo dolore a giomai gatto grimbo. Mamma mia, me ne sono tornato indietro e il giorno c'erano 3 o 4 parcheggi, c'erano, dimmi tu, solo che era col cane qua, me ne son dovuto tornare indietro. C'ho tutto pronto, in 5 minuti lo faccio. Lo so. Prima facevamo tutti in campagna, cazzo, quando c'avevi la campagna, te lo ricordi che abbiamo bucato la cappotta della macchina di Liliana? Di nascosto avevamo messo il baracchino, ma anche lui non lo voleva. Quando ho portato, che cos'è questa cosa? Ehi, che bello. Ehi, in campagna già veniare, si rubia sale, bigliavi e fatti su di puri. Qua non c'è parcheggio, l'ho dovuto posteggiare molto lontano la macchina e non ce l'ho fatta andare a pigliarla. E c'erano i parcheggi il giorno che volevo andare. Se devo andare anche da Fusaro e mi serve la macchina per andare a Fusaro, perché dovevo comprare cosa che mi serviva qua e non vi sono andato. Io devo andare anche da Fusaro. Aspettate che c'è Nicola che sta chiamando. Nicola, avanti. Caffa sul 20. Ciao, lupo grigio, ciao. Qui non arriva. Guarda, più. Ok. Tony, te lo ricordi di Giancarlo Tucatucca? Roger. Insieme a Barbera, Fiuccina. Sì, Tucatucca metteva la mattina presto, la domenica specialmente. Il prete e quel ragazzo. Padre, che c'è figliolo, non so se lo ricordi in particolare. È padre Francesco. Padre Francesco, quello abitato, se rivicchio. No, quella è un'altra cosa. Padre Francesco l'ho visto tra un mesetto fa. ogni tanto già lo incontro a Padre Francesco. Sempre fatto apposta, tutte le volte che passo lì nei dintorni del Ponte Rosello, città mercato, città civico, sembra fatto apposta, incontro quasi sempre a Padre Francesco. Va bene, che volevo dire, Tony, un giorno all'ora di pranzo mi fa Giancarlo Tucca Tucca, Giulio, se vieni a casa un momento che ti devo chiedere una cosa. Vabbè, io ho preso, dopo pranzo sono salito prima di entrare al lavoro, sono andato a casa sua e mi fa, no, cosa mi devi chiedere? Ho fatto, no, non ti devo chiedere niente, devo solo chiedere a te una cosa, nel senso che tu niente vedi qua e niente senti di frequenza, quella portante che c'era sempre fischio, c'era un fischio sempre così, sempre fisso, ma lungo, per lungo, per un'ora, due ore, una cosa impressionante. Ho fatto, no, e lo sai chi è che lo sta mettendo questo fischio? E cosa ne so io che lo sta mettendo? Vieni, ti faccio, con te mi posso confidare, dici, vieni che ti faccio vedere una cosa. Solo tecnografo che è a lui, perché lui era anche geometra, no? Cioè era geometra, ha fatto il geometra, ma era anche radiotecnico, oltretutto. C'aveva un oscillatore e aveva fatto il collegamento del baracchino all'oscillatore. Tu in aria sentivi questo fischio e non sapevi da dove venisse. Tu vedevi lì tutto, non c'era niente, non c'era microfono, non c'era niente, aveva collegato direttamente questo filo all'oscillatore, Tony. E c'era un fischio continuo per ore, sempre. Adesso lo dico frequenza, gli ho detto, guarda se lo puoi dire, infatti non l'ho mai detto a nessuno, ma lo sto dicendo a te e a tutti quelli che stanno ascoltando, tanto Giancarlo ormai sono passati 30 anni che non si è più sentito. Vai Tony. Sì, del Monte Rosello 1-2. Altri tempi, Giulio, altri tempi bene anche ricordare, giustamente. E poi c'era anche Barbarice, tra l'altro di Via Pasquetta, che era la 50, Marta, ce n'era, Cibi, ce n'era. Ah, va, poca roba, ma se sono pochi buoni va bene, se ho pazienza. Beh, certo, ci sono, sì, ma anche prima già ce n'erano persone serie, solo che c'era troppo casino, c'erano troppo ragazzi anche, c'erano, sai, ragazzi in un capo di fumma, per cui il casino era anche per quello. Poi c'era Falcone che istigava e loro istigavano, i ragazzi istigavano Falcone, di che ti puoi immaginare che cosa succedeva in quegli anni lì, però le persone serie non mancavano, già c'erano, la voglia, Altalena, Corsaro, Monforte, quelle di Porto Torres, XL, la moglie e tanti altri, ce n'erano, Renata, tutte persone che facevano questo la notte, tardi, anche Mariolino Larghero e la vendita dei massoni che facevano questo, sono naturalmente via dei Burghidi che entravano con la tonalità sessuale, via dei Burghidi, via. E poi c'era Itria che si prendeva gli appuntamenti alle 3 di Manzano con la gente dei paesi, fatti l'embriaga, e cosa vuoi fare? Avanti Tony. E tu ce l'hai conosciuta Itria, che la lancia sta gatta rossa, eh? Tutti i cimini sono passati, ce l'ha più tirata la rossa, e ce n'era. A leccare tutti, anche della notte, e veniva, uiaia. E va bene, sai che io ho riposato anche troppo. E va bene, penso, spengo il baracchino, via. Stai descanso, dici che faccio qua. Vabbè, io vi ascolto, dai. Mi allontano un attimino dal baracchino, che devo fare cosa? Devo preparare qua, semmai ci sentiamo. Ciao Giulio, semmai più tardi se ti trovo, ti facciamo un po' di frazione. Ciao Gianni, Natalino e Emanuele, se c'è ancora in frequenza. E buona ascolto anche per Claudio. Ciao a tutti i virtuali ascoltoni, riprendi Gianni. Ciao Tonino, dai, buon corso ascolto. E comunque vi siete dimenticati, Itra aveva una Bugatti, me lo ricordo bene, sempre parcheggiata in via Roma, era Roma, vicino al 3B. No, Itra aveva una Lancia Zagato rossa, che bisogna comunque buttare se lo sapevi. Avanza, devo dire troppo, ti devo dire, che era un ragazzino. Aveva una Bugatti, me lo ricordo bene. Brecco. Ragazzo, rossa. Il ragazzo era già il capotabile, da nuovo. No, io mi ricordo che avevo una Bugatti, vabbè, comunque. E niente, vabbè, comunque era la moglie di un noto pittore. Libero Meredina. Ah, che tu sei andato in via Biaggi, numero 2A, la mazza. No, no, no, non ci sono mai andato io. No, no, no, no. Con quella lì mai. So che ci sei andato tu 3 giorni. E Reggio Matteo la mazza. Oh, Tony, avevo il gatto e gli cagava sotto i muri e non ne muria mai, non ne muria. Era colizzata, mi rotto, l'ha regalato un boccione del vino. Si è venuto a trovarmi a casa, io abitavo da solo, ragazzo. Anzi, ha pigliato una crampata, ha detto, ubriaca, io. Tu non ne hai vino per ubriacare a me. Non si legge i piedi. Sì, sì, sì. Oh, Gianni, Itria era la cognata di Emanuele Buonanima, Porto Pelatomi, la sorella della moglie di Emanuele. Ah, non lo sapevo. Ma lo sai, ma te l'hai giudito. E la figlia di Itria era attaccata con quello malato, figlio di Piana. Esatto, era col figlio di Piana, sì. Ma quel ragazzo mi sembra che era malato, non avesse qualche problema. Sì, non mi ricordo si chiamava Danilo, come cavolo si chiamava, e un paio di anni sono passati, giù, non posso ricordarmi tutto io, già sono ricordato già perché ci aspettava. No, non ci andavo io, non sono voluto io. Tony, e tu sei molto più giovane di me, cioè quello che non ricordo io tu devi ricordare tu, se no come faccio io ad essere informato? Lascia perdere me, me lo posso anche dimenticare, ma tu che sei più giovane, devi tenere a mente queste cose, in modo che io quando ti chiedo qualcosa, tu mi rifreschi la memoria. E lui già ricorda. Avete parlato in due, è perché c'era Spidi Gonzale che ha schiacciato prima di te. Allora, detto, siccome Gianni è 6 anni più giovane di me, quindi se non ricordo certe cose, ricorda lui perché anche lui ci fa zigano. E di la verità, chissà quante volte sei andata, sei andato già, anche lì, dalle parti lì, di Sant'Agostino, chissà quante volte che sei andato dall'altra, di la verità. Da chi? Da Luce? Da Luce del Casino? Io non ho detto nome, il nome l'hai fatto tu. Ciao carissimo, la mamma. A me mi basia Lumanzano Ghisu. Natalino carissimo. Ciao a tutti da Luce. A me pare che Intrepido non è che ha avuto la moglieri di un campo di fava, l'ha avuto con tanti GB per un Natalino. La vecchiaia. E carettino. Una volta ho seduto con lui, con Intrepido, lui purtroppo era invalido, aveva solo un braccio, ma era un demonio, era guidando la macchina, era veramente bravo, ma bravo, io non so come facesse quest'uomo a guidare la macchina, mi ricordo che mi sembra che avesse allora in quel periodo un 128 verde, mi sembra, se ricordo bene, non me lo ricordo bene comunque, ho seduto con lui, e devo dire che guidava meravigliosamente bene, ma bene, bene, bene. Era bravo in macchina, ma non bravo marito, ecco per cosa la moglie andava con l'acqua. Vabbè, adesso io potrei dire anche che Intrepido era lo zio di un CB che non sta più entrando, però già lo conoscete, ma non vi faccio il nome perché potrebbe entrare da un giorno all'altro. Che è il cugino delle pote, Natalino. La vecchiaia. Break. Natalino, tutti con Milani, avanti break. Al terzo tentativo ci sono riuscito, dai. Ok, dai, vi sto ascoltando, dai. State raccontando i vecchi tempi. Ciao Robè. Io oggi tocca a me, mi hanno preso di mira. A quel pirata di Natalino, cacchio. Mi hanno messo 2 strisce Natalino. Tra chi era là? Quello amico vostro, che era amico di Gianni, era Falcone. Allora. No, di Marco Condor. Ah, è di Marco Condor. Buonasera, Robè. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ho sentito Antonino che stava andando via. Ciao Giulio, ciao Gianni, Natalino. C'è qualche altro in questa ruota? Dai, continuate, vi ascolto. Aspetta che ti devo chiedere un'altra informazione, Tony, che tu sicuramente hai più memoria di me. Quello che abitava in via Santa Apollinare, come si chiamava, che modulava, anche la moglie? Piero Drago e Maria Piccolo Peggiorra, buonanima. Sì, sì, sì, sì. Adesso me l'hai ricordato e mi ricordo bene, sì, è vero. Va bene, ciao Roberto. Tu Roberto, quando devi entrare in frequenza, devi aspettare quando rilanciano a me, perché lì ci sono tutti gli spiriti contrari da quella parte, invece io sono un pochino più lento. Allora puoi entrare tranquillamente, ti posso sentire. Dai, sta bene per me, ciao. E ieri sera quando stava parlando lui con... come si chiama? Con Fabio. Cazzo, 30 voci ci ha fatto un break. Con Falcone ti stava uscendo, eh? Anzi, tu non li fai nulla a Falcone parlando. Comunque non me la fatti nulla. Quando è il mio turno già entra, già non sono un tipo che è permaloso che si offende. Ho fatto un paio di cose, non ho insistito, che ho visto molto preso la conversazione, per cui stavo ascoltando, non c'è problema, non vi preoccupate. Se era roba urgente già mi facevo sentire, non c'è problema. Dai. So come farmi sentire. Cosa volevo dire? Mario Mao, un interrogativo, era un radioamatore. Stai uscendo a tratti, stai uscendo a tratti, no, non era un radioamatore. Come a tratti? Sto uscendo male adesso? Poc'anzi sì, adesso no. Forse non ho premuto bene il mic. Chi è che c'aveva un figlio che si chiamava Fabrizio? L'ha rifatto, di nuovo a tratti per un po', quello era inizialmente, di nuovo a tratti. Qua sembra, fammi vedere. Non sembra tutto a posto. Chi è che c'aveva un figlio che si chiamava Fabrizio? Fabrizio, vabbè, a parte Fabrizio che conosciamo adesso, pure un altro chi era? Chi era l'altro Fabrizio? Chi era? Boh, non me la metto, non me lo ricordo io, Robè. E cosa? A meno che non sia Passero che c'aveva un figlio. Chi era l'adiamatore? Io mi confondo sempre. Passero con coso? Con Mario Ma. C'era l'adiamatore. Allora era lui che era l'adiamatore. C'ha un figlio che si chiama Fabrizio. Questo non te lo so dire. Però era l'adiamatore. No, non era figlio che si chiama Bruno, si chiama il figlio. Bruno. No, allora sto confondendo le persone, dai. Sì, Gavino era l'adiamatore, sì. Prima. Gavino è entrato un mese dopo di me come CB. Ci siamo conosciuti in una festa che c'era in Piazza Italia, c'erano dei canti, mi sembra che fossero anche canti sardi, canti sassarisi, cose del genere, non me lo ricordo bene. Comunque eravamo vicino, lui ha parlato con la moglie e io mi sono girato e ti sento questa voce. Capita, io vado, chi tu lo conosce? Questo qui deve essere. Mi sono avvicinato, scusi, ma lì Gavino si chiama? Sì, e tu chi sei? Io sono Giulio, e da quel momento ci siamo conosciuti. Un mese dopo di me, però già parlava baracchino quando appunto l'ho conosciuto, e per quello, perché aveva una timbrica tutta particolare Gavino. E mi sembra che anche io un periodo l'ho sentito di sfuggita quando era già amatore. Ma chi è il più anziano in frequenza? Prima di te chi c'era di questi che tipo Gio Maria? Prima di te è venuto? Gio Maria c'è 54 anni in frequenza, non Alino, 54 anni. Poi c'è Walter ormai era amatore. Poi mi sembra che ci sono io, Macchisio, poi chi c'era? C'era Mario Mao, ma Mario purtroppo è scomparso, e poi adesso non mi ricordo, non credo che ci sia nessun altro prima di Gio Maria, assolutamente. Gio Maria 54 anni, me l'ha detto proprio ieri, me l'ha detto, perché l'ho sentito sul canale 23. E di quelli anziani che c'erano qualche anno fa, Ponzio Pilato, quello molto anziano era come CB? No, come CB non era molto anziano, intanto era spagnolo, però era qua in Italia, e cioè a Sassari, perché era figlio di un sassarese, la madre era spagnola, ed è nato a Valladolid, è nato. Una volta infatti mi ha anche corretto, perché c'era, allora c'era il periodo delle macchine Marbiglia, e io le avevo detto Marbella, come era scritto nella macchina, perché lui aveva una di quelle macchine, aveva, no? Ho detto no, non si dice Marbella, si dice Marbiglia, ya, dice, perché la L, la doppia L in Spagna si dice ya, capito tu, Roberto? Ok, vai Gianni, a memoria tu, va bene, facciamo prendere a Gianni, sto cercando di fare una storia dei CB, che era il primo che ti ricordi, il più anziano secondo te, anche di quelli deceduti? C'è mancata di nuovo il radio nel finale. Non lo so, forse sto schiacciando male, dai. Adesso mi senti? Sì, ti sento, ma nel finale sei mancato poc'anzi. Adesso no. Però Gianni, avanti, riprendi. Gianni è andato nel QTH piccolino, come si diceva una volta. Ehi, stavo dicendo, chi era il primo? Tu sarei entrato per dire 50 anni fa o quello che era. Prima di te, chi c'era? Però ancora prima, nel senso il primo in assoluto che si dice a Sassa, il primo CB. Ma diciamo che c'era, come CB, c'era Walter prima di me, c'era Gian Maria prima di me, c'era Mario Farina prima di me, e poi altri, non me ne ricordo, vabbè, parlando di persone anziane, poi naturalmente c'erano anche quelli di Alghero, c'erano quelli di Porto Torres, diversi, non tutti, ma c'erano persone più anziane di me, di allora però, ma io sto facendo memoria dalle persone che ci sono adesso attualmente c'è Gio Maria, che c'è 54 anni, c'è Bacchisio che è più o meno degli anni che ci sono io, Gianni di Mulos, quello è lo stesso, quello è come me praticamente, nel 72, come sono entrato io sono entrato febbraio 1972 e anche lui è entrato nel 72, non so in quale mese, però anche lui è entrato nel 72, Gianni di Mulos. Ma quello che voglio dire, siccome la regolarizzazione dei CB è stata fatta nel 73, eravate tutti pirati allora prima? E allora, capita, prima si faceva il pirata, tu pensa che io avevo l'autoradio e c'era anche il baracchino, entro contenuto all'autoradio, no? Allora, adesso non mi ricordo che marca fosse, comunque non ha importanza. E avevo utilizzato l'antenna della macchina che a quel tempo avevo io, il 1100D avevo allora, con il cambio a volante eccetera, e c'era l'antenna elettrica del coso, no, della radio che si sollevava, avevo inserito, innestato l'antenna per allungarla e cercare di portarla alla frequenza del baracchino, perché nella macchina avevo anche il baracchino, sempre entro contenuto nell'autoradio in quel periodo, ma a tante persone facevano così. Poi naturalmente prima di me c'era anche Torella Verde, prima di me allora, io sto parlando di allora, no? Adesso tutti non me ne ricordo, però questo Pilato è entrato molto dopo, però era un'ultima persona, educato veramente, non diceva mai una parolaccia, era sempre calmo, proprio di lusso, ed era radiotecnico di mestiere. Luisito, dietro l'hai ancora? No, Luisito è entrato da bui di me. Penso che più o meno a quel periodo che popolavano. Sì, quello sì, è vero, quello sì, era in quel periodo, ma comunque era dopo di me, ma subito dopo, non era anni da bui di me, no, subito dopo, sempre quello c'era anche Renato Cocco, che in un momento quanto si chiamava, Sigma. Sì, Cerotto, te lo ricordo. Ed è bella di brutta. Sì, ce n'erano diversi, allora ero carica di assonato. Eppure voglio cercare quel blocco che avevo fatto, un blocco Lottes, con tutti i nomi, se ce l'ho ancora, non lo ricordo veramente, se ce l'ha buttato mia moglie, avevo annotato tutti i nomi di allora, ma venivano centinaia di nomi, erano anche gente dei paesi, da fuori, mi ricordo, Geo per esempio, Giro Bantuno, Maria la tassista di Proaghe, com'era quella, come si chiamava quella, Tony, Maria di Proaghe, come faceva la tassista, portava i bambini a scuola. C'è Riccardino, ciao Riccardino, perché dito. C'era anche Prascopia, ce n'era gente, dovrei ricordarmelo. Avanti Riccardino, scusate. Ok, grazie Tonino, ciao a tutti, ciao Roberto Giulio, Tonino e poi non so chi ci sia, sono corso. Di nuovo il microfono la tocca. Come ho finito? Hai toccato di nuovo il microfono, Riccardo. Cosa c'è Roberto? Cosa hai detto? Sei tutto a inneschi, hai toccato di nuovo il microfono. No, sto guardando niente, aspetta, abbasso, aspetta. Così va meglio forse, no? sei troppo basso. Riccardo, ieri abbiamo fatto le regolazioni perfette e cazzo, ogni giorno tu chi lascia stare, adesso di tutto a fischi. Comunque ben sentito in compagnia mia di Tonino, Giulio e Natalino, e c'era anche Don Gianni doppio rum, quasi che si è andato a portare il cane perché non ha risposto. Di nuovo Riccardo, fai sentire come esce. Ciao a tutti, vediamo se sto uscendo meglio adesso. Adesso non c'è più il fischio, poi vai più con calma, vediamo se si può sollevare un po' col microfono. Vai Giulio per Riccardo. Ok, ciao Riccardo, sì adesso già, io già ti ascolto, non c'è problema. Sì. E tanti erano, allora vai tu e ricordati di tutti con le persone. Vediamo se è rientrato Gianni. Gianni, sei rientrato? Oh, Gianni è andato a donne è andato quello. Vabbè. Ma tu ti eri allontanato, ma sei ritornato? Aspetta, era sempre in ascolto, sto facendo. Ho iniziato la battutina quando mi chiamo in causa. È cosa che volevo dire, ma non dimenticare giù, poca mentira. Meglio. Vabbè, quando me lo ricordo te lo dico. E di la verità che sei stanco, dai, perché non ammetti? Ammetti, sei stanco, e dunque qualche cosa ti sfugge. Si vede che stamattina hai camminato troppo, ed è rimasto lo giro di 51. Ma sai qual è il giro del 51, Tony? No, ieri stamattina sono per tirarmi la zona, ma ieri si scappavamo, che era con mio figliuccio. No, è così che sono 51. Io nel 51 era questo Donna, Daniela, eccetera, eccetera. Una volta facevano le gare ciclistiche, facevano, passavano qua in viale Porta Torres, passavano, andavano a Porta Torres, da lì poi andavano verso Alghero, tutto, e lo chiamavano il giro del 51, forse perché era 51 km, non lo so. Va bene. Dai, fate girare, dai, se ne piglierò bene. Io conosco via Roma 51. Eccolo lì, lo conosco nel mondo, è la verità, ma non è familiare a me, e nemmeno a te penso, sono sicuro, e nemmeno a Tonino, non è familiare, che poi ormai quello lì ha fatto disdetta, vero Tonino? Anche quella è fatta per i cristiani, come gli ospedali, e poi purtroppo anche per il cimitero. Adesso è tutto bancato, dicono, ma non c'è più niente. Io all'Abre ho fatto un grosso mega giro per proteggere le macchine, perché lei è un casino a proteggiare. Lo so, anche lì poveretti, anche loro hanno sbagliato e stanno pagando, e cosa vuoi fare? D'altronde, anche la vita è anche quella. Non critichiamo nessuno, perché giustamente non è da criticare, perché la vita è anche quella. O meglio, io dico sempre, probabilmente anche quello è un destino, anzi, diciamo che in larga percentuale ne sono convinto che anche quello è un destino. Avere il mal vivente e avere certe condanne, pazienza. Cosa mi volevo dire? Un'altra cosa mi volevo dire, adesso non me lo ricordo, vabbè. Ah, Tony, ti volevo dire, tu li hai conosciuti i ciclisti di Corso Vico? Ciclisti di Corso Vico? Di chi non stai parlando? Io sto parlando negli anni 60, 62, una cosa così. Tu in superiore eri nato? Sì, eri nato. Io sono dello 54. Ah, e allora non vuoi... Ah, beh, sì, magari eri bambino, vabbè. No, una volta i ciclisti di Sassari, sai cosa facevano? Allora c'erano le carrozze lì, no, i cavalli, eccetera, alla stazione. Non era come anche oggi, macchine ne vedevi una ogni mese di babba. E c'erano i grandi ciclisti di Sassari, tipo ad esempio Mura, quello del market, Umberto Mura, Cicino, Flaminio, Tonino Canu e tanti altri, no? Tutti i ciclisti dilettanti, i ciclisti, allora se ne facevano tante gare a Sassari. La sera facevano le volate, salivano su dove c'è Corte Santa Maria, dal rifornitorio lì, no? Partivano e facevano la volata sino davanti alla stazione, dove c'erano molti cappelli, il negozio di pezzi di ricambio. la volta che da voi la ricopiate il vigile domani, l'indomani in giornale rischiano la vita i ciclisti di Corso Vico a grande titolo sulla Nuova Sardegna. Da allora non hanno più corso perché sono arrivati i vigili urbani e hanno fatto smettere. Ero vicinito io, no? Abitavo tutto l'altro giorno allora. Ok, eia, sì, sapevo dove era Cappelli, dove c'era la Corte San Maria, c'era il pasteficio Pesce, che poi ha fallito, il pasteficio Pranzi è entrato. E via dicendo. Riprendi Roberto. Facciamo per la Riccardino, avanti Riccardino. E via, va bene, grazie Roberto. Prima aspetta, mi avvicino al microfono e non so di cosa parlare, mamma mia. Non so neanche l'argomento perché mi sono distratto, ci credi. Riccardi, te lo dico io perché non c'è argomento. Perché c'è Giulio qua che qua è vecchietto, lui giustamente sta ricordando gli anni e anni che tu manco nato eri. È ovvio che tu non ti ci trovi. Dai, che a me sei discorso, dai. Giulio, ne parliamo la prossima volta, almeno Riccardi non c'è qualcosa da dire. D'accordo, cambiamo il discorso.